bambino io sognai di eroi e marinai, nella mente avevo già la mia idea di libertà, la bambina che era in me, ora è donna insieme a te, stretta tra le braccia tue, la mia idea di libertà. Shazam, Shazam, e la voglia di volare, di sognare insieme a te, il modo giusto per amare. Sole amore mio, che non ho inventato io, me lo dai soltanto tu, quando ti stringi un po' di più. Sharzano, Sharzan, è la voglia di volare, di sognare insieme. Shazam!